Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 33. Le quattro lettere del nome Havaya corrispondono alle 10 sfirot. Noi parliamo di 5 perché la quarta sfira Zeiran Pin consiste da 6. Quindi a volte parliamo di 5 e talvolta di 10. Spiegherò. Tutto ciò che apprendiamo è composto da Keter, Chochmah, Binah, Zeiran Pin e Malchut. Questo è tutto. Tutto è composto da quei cinque. E questo conta per tutto ciò che è. Malchut è la creazione. È ciò che il creatore ha creato. La creazione stessa. O un desiderio maturo, dove tutto riguarda. Questi quattro sono ovunque, sono qualità della luce che forma la Malchut. Anche dentro di noi, loro ci sono tutti e cinque. Zeiran Pin contiene 6 e quindi diventa un totale di 10. Quindi anche dentro di noi tutto è composto da quei 5 o 10 sfirot. Questo è quello che è il divino nell'uomo. Quello che dobbiamo fare è il seguente. Dentro di noi sono quei cinque. Tutto ciò che è in noi sono quei cinque. Keter, Chochmah, Binah, Zeiran Pin, Malchut. Malchut è la parte egoista dentro di noi. Keter, Chochmah, Binah e Zeiran Pin sono la nostra parte altruistica. Non direi altruistico, ma qualità della luce del superiore. È quello che dobbiamo fare, noi dobbiamo. La Malchut deve tutti a quei. Quattro in se stessa, che è luce. La luce viene da lì, sopra, tutti quei mondi, e questo viene attraverso noi. Questo viene alla Malchut, e lo scopo è che cerchiamo in più possibile di portare la Malchut in conformità con quei quattro. Naturalmente un piccolo frammento della Malchut rimarrà in seguito. Quando faremo tutte le nostre correzioni, e un piccolo pezzetto rimarrà quel che non possiamo correggere fino alla venuta del Mashiach. Ma quel che siamo capaci di fare dobbiamo farlo. E poi rimarrà qui Malchut de Malchut. Noi non possiamo correggerlo. Qui tu hai anche 10 o 5. Quando portiamo questi in accordo con quei quattro, allora abbiamo quei quattro nel nostro sé. Così abbiamo quattro sopra. E questo lo faremo come se fosse un'incisione in noi stessi attraverso quei quattro e uno rimane. Le Malchut de Malchut. Quello che non possiamo correggere. Quello che sto cercando di fare è che possiamo spiegare tutto in 5 o 10 sfere. Quando impariamo i punti di forza, lavoriamo con esso. Quindi non abbiamo bisogno di un disegno che terrà tutto in sé. E da lui viene tutto. Ha tutto potenzialmente in sé. E Keter dà a Chochmah una luce al 100%. Chochmah riceve la luce in sé, ma è solo ricevente, proprio come un bambino riceve senza alcuna reazione. Non è ancora una piena creatura. Keter e Chochmah. Ora parliamo di Kehilim. Dobbiamo sempre tenere presente di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando della luce o stiamo parlando del ricevitore? E sempre abbiamo bisogno di sapere di chi stiamo parlando. Stiamo parlando. Quando parliamo di Kilim, del ricevente, dell'umano, della nostra anima, stiamo parlando di Kilim che sono pieni di luce. È anche possibile che stiamo parlando di Kilim senza luce. Di Kilim da cui la luce l'ha lasciato. Qual è il significato di l'ha lasciato? Che il Kli sperimenta, vuole o non può sperimentare la luce. Allora stiamo parlando di Kilim vuoti. Non corretto o non a forza. Allora noi diciamo, ad esempio, che la luce lo sta lasciando. Ma mai la luce esce o la luce entra. È sempre l'esperienza dell'inferiore. Perché la luce sempre riempie. Tutto è in completa perfezione, solo quando Malchut non ha forza, allora lei sperimenta una certa parte, certi punti di forza della luce, come se fossero fuori di lei. Il significato della Kabbalah è che portiamo tante luci, punti di forza dell'universo, che li portiamo verso il basso, che cerchiamo di riempire la Malchut il più possibile, perché sopra è tutto perfetto. L'intero compito è iniziare a sperimentare tutti quei punti e punti di forza dell'universo, sperimentare sempre di più, cosa che hanno fatto i grandi cabalisti. Qual era il loro merito? Più avanti impareremo, uno ha portato ad esempio a Binah e l'altro ancora più in basso. Il grado di luce che tu porti giù. Cosa significa portare luce? La luce non viene o va. Tutto è nella serenità. Parliamo di la luce sta scendendo. Quando correggo me stesso e sento che la luce sta venendo dentro di me, ma la luce è sempre in me. Solo noi diciamo questo proprio così, quindi quando ti correggi, hai la sensazione che la luce entri in te. Allora tu fai uno spazio libero per sperimentare la luce in te stesso. Tutto è riempito con la luce. Il più grande malvagio ha la luce, che non ha mai fatto nulla di buono, è pieno di luce, solo lui non lo sperimenta. Tutto è pieno di luce, tutto è perfetto, solo noi non lo sperimentiamo. Quindi il nostro compito è di portare tutte quelle forze, Keter, Chokmah, Binah, Zeyran, Pin, in giù nella Malchut. In una parte di esso, in quella Malchut, per sperimentare ciò che è possibile e il resto. I desideri che non possiamo correggere, lasciamoli. Appoggiateli, lasciali stare. Quello verrà dopo, quando verrà la forza del Mashiach, che sarà tutto pulito, allora tutto sarà luce. Saremo completamente riempiti con la luce. Lo faremo non solo con Keter e Chokmah, ma avremo tutte queste sfaccettature in noi stessi. L'intenzione è di avere tutte queste sfaccettature in noi stessi. Ogni desiderio è composto da Keter, Chokmah, Binah, Zeyran, Pin e Malchut. E sono tutti necessari. Keter è il più arioso, puro, semplice e più raffinato. Il più alto, effettivamente, è luce. Chokmah è appena come la luce. È un po', non ancora un cli vero, ma può già ricevere la luce da Keter. Ma non parliamo ancora di un vero cli. Vero cli, cos'è vero cli? Lì significa qualcosa che è già capace di limitare la luce. E Chokmah non è ancora capace di limitare. la fa venire dentro. È un certo ingrossamento della luce, ma non ancora. Solo Malchut è la vera dimensione, il vero desiderio, il desiderio maturo, il vero Kli. Quindi ogni cosa che accade serve o è necessario passare attraverso tutti quei quattro, ogni cosa che esiste. In Malchut ci sono tracce da Keter, tracce di Keter e tracce di Chokmah, tracce di Binah e tracce di Zeir Anpin. Ogni cosa è in lei. Perché da questa fase, da Keter, arriva a Chokmah e poi a Binah. Binah si rifiuta di ricevere la luce. Questa è la relazione del Kli che sta dicendo: io non voglio ricevere la luce. Questa è la forza di Binah. L'inizio di ogni limitazione è Binah. È un elemento femminile. Ogni cosa, quando la luce scende più giù, è maschile. E tutte le reazioni della creazione è femminile. Nelle parole del nostro mondo. Tutti noi usiamo molti elementi femminili. Non ha niente a che fare con la donna o l'uomo in questo mondo. Quindi Binah è la forza della prima limitazione di luce, ma non è ancora limitazione. Lei dice, la forza della Binah è non ho bisogno della luce. Lei è così vicina a Chokmah. Chokmah è proprio come luce. Lei non ne ha bisogno per lei stessa. Lei non ha ancora forza di ricevere e preservare. E non ha bisogno della luce Chokmah. Binah ha già esperienza di Chokmah, di ricevere. E lei ha anche tutto quello che sta venendo giù. Ha ogni cosa che viene da Chokmah. A ogni cosa che verrà giù in sé potenziale. Ma in basso è il risultato in fase. Tutte quelle esperienze che sono di sopra. Binah da un lato ha esperienze di Chokmah. La luce che ha ricevuto è Binah anche la prima, per così dire, qualità di dare. Lei non ha bisogno della luce, luce Chokmah. E questo è, quindi, lei ha quel dare. Mediante il dare anche lei riceve pure luce. E quella luce è chiamata Chassadim, Chesed, singolare, che è anche una forma di cibo per qualcosa, cibo spirituale. Questa luce di misericordia è anche una forma di cibo per l'uomo ricevere, che l'uomo riceve. Questa è una qualità di Binah. Ci sono persone che sono impazienti di ricevere. Ci sono altre persone la cui natura o educazione o il loro atteggiamento sono misericordiosi. Non hanno un egoismo così rozzo. Ottengono il cibo, per così dire, il cibo celeste, attraverso la misericordia, la forza divina. Ma l'intenzione è, naturalmente, di farti fare il pieno, completamente, per così dire, tramite tutte quelle forze, è per scegliere in modo indipendente e in seguito portarti in accordo con quelle forze. Esse salgono lentamente verso il Keter. Ma tutti questi punti di forza sono lì con te. Ai Malhut risale di nuovo, come per dire, sperimentando il Keter, fino a quando non ti scioglierai completamente e diventerai uguale al Creatore. Ma allo stesso tempo tutte queste cose esistono perché nulla scompare nello spirituale. Così, quando ricevi un peso in te stesso, illumina. Allora quello è perfetto, ma devi essere in grado di fare movimenti all'interno, di nuovo su e giù, e su e giù, e naturalmente anche verso l'alto. L'altro lato, non solo su e giù, ma anche ai lati, proprio come l'abbiamo messo. La luce viene dall'alto, ma anche da un lato, all'altro lato, e anche intorno a noi. La luce arriva ovunque, totalmente. Entrambi, orizzontale e verticale, per così dire, ci riempie completamente. Quel che ci riempie per mezzo, l'orizzontale, è anche luce, luce Chesed. Ma la luce Chokmah è da sopra a sotto. Chokmah è la luce della creazione, che è la luce più potente, la luce più essenziale dell'esistenza. La luce maschile è luce che alla fine arriva lì, la luce Chokmah, la luce più alta. La luce più alta è la luce essenziale, è la luce Chokmah. È necessario che ci sia un intermediario, e questa è Binah. Chokmah è maschio e dà in giù. Binah è femminile che rifletterà. Quando essa riflette, poi scenderà di meno. Quando una palla viene lanciata da un colpo di testa e non c'è nessuno che la prende, arriva fino in fondo. Più giù è, più forte. Ma supponiamo che qualcosa cada e poi, più in basso, da qualche parte si blocca. Diciamo un ramo di un albero. Allora quel soggetto cade più in basso, ma con meno velocità e forza. Questo è anche il compito della Binah. La forza della Binah offre resistenza alla luce, così che la luce che va giù non sia intensa e troppo alta, perché nessuno sarebbe in grado di riceverla. Quindi la Binah si ispessisce e poi viene ai bambini, Zeirampin. E Zeirampin ha già qualità da tutte e due, da Chokmah il padre e da Binah la madre. Zeirampin riceve da Binah, e poiché è così vicino alla Binah, ha molte qualità della Binah. E Binah è dare, e quindi Zeirampin è principalmente pure dare. Ma ancora deve esserci un elemento in più in Zeirampin, un piccolo elemento da Chokmah. La madre dà qualcosa al bambino, e Zeirampin è la forza della Binah, ed è ancora un piccolo dare. È un piccolo ricevente, luce ricevente. Vuole anche ricevere Or Chokmah. Questo è importante. Or, luce, che riempie, ricevente, luce. Or, luce, che riempie, luce Chokmah. Zeirampin vuole ricevere Or, ma solo un po'. Perché? Lui è troppo vicino alla Binah. E poi Malchut è molto più lontano dalla Binah. E Malchut ottiene il gusto della ricezione. E lei vuole ricevere per il 100% proprio come Chokmah. Ma poi completamente per lei stessa, perché è la sua propria volontà, un desiderio maturo. Chokmah non era capace di ricevere per sé. Perché? Perché no? È molto vicino a Keter. Una luce sottile. Non ha ancora la forza in sé a formare un vero cli, a formare davvero una limitazione. È ancora molto vicino alla luce, qui c'è una grande distanza. Qui è la distanza. Questo è uno degli elementi. Uno dei modi per ridurre la luce, la distanza. Essere in grado di ricevere la luce deve prima essere ridotta. La riduzione della luce è tikkun, è la correzione. Arriva una luce forte e molto pesante. Come possiamo ricevere quella luce? Ci sono due cose: ridurre la luce per indebolarla. E in secondo luogo, questo è spesso accoppiato per rendere il cli più grande. Questo è qualcosa lieto che lo sperimentiate ogni giorno e sappiate cosa fare. Due cose. E questo è nei mondi. Vedremo esattamente questi due elementi che incontreremo. Cosa significa correzione? E cosa significa senza correzione? Senza correzione si intende il desiderio diretto di ricevere la luce. Non ho ancora desideri. Non puoi ricevere la luce direttamente, assolutamente impossibile. Non ho ancora desideri maturi, meglio dire. E per questo non puoi ricevere la luce direttamente, assolutamente impossibile. Tutti i peccati che l'uomo commette e continua a commettere da una generazione all'altra, perché l'uomo riceve direttamente la luce mentre non ci è stato dato di ricevere direttamente la luce. Piacere che cosa è necessario per ricevere la luce? È necessario che il creatore abbia costruito lui stesso un sistema. In questa maniera anche i mondi sono costruiti come bene. Invece di ricevere la luce qui direttamente, quella va al Malchut. Certe fasi sono necessarie. Tempo dappertutto, fase ripetibile. In primo luogo, da un lato ridurre la luce come una madre fa con suo figlio. Lei parla in modo infantile al figlio. Oppure lei prepara il cibo in modo che il bambino possa mangiarlo. È lo stesso con la luce. Non puoi mai forzarlo. Forzalo e avrai una sbornia. Con ogni cosa che fai e lo forzi, devi dosare, devi provare, perché così la struttura dei mondi è costruita. Vedremo che la luce da un mondo sfiorirà ad un'altra luce. Si indebolisce. Chokmah già indebolisce Keter un po'. Esso non è ancora un cli. Chokmah non è ancora un cli. Binah già molto di più. Binah ha anche una reazione, per così dire. Binah, ogni qualità, la forza di Binah, non è ricevere, Binah inizia a ricevere solo quando le forze inferiore, Zeiran Pin e Malchut, iniziano a chiedere per la luce. Se non chiediamo la luce, arriva solo la miseria. Senza che chiediamo, nulla vediamo, ma arriva solo miseria. Tutto consiste di quei cinque fasi. Ogni cosa in quattro fasi. Keter, Chokhmah, Binah, Zeiran Pin. E la quinta è Malchut. Questo è importante. Ogni desiderio è formato fuori da quei cinque. Tutto è fatto in questo modo. E così si ottiene che la luce venuta giù è stata ridotta, perché senza la riduzione della luce non può essere ricevuta. Perché l'unico ricevitore alla fine è la Malchut. Le altre sono solo qualità della luce che lasciano anche tracce in noi. In noi, ma in realtà l'intenzione è che è Malchut. Malchut è il regno. Questa è la vera sensazione pesante che a volte a noi capita di Shabbat o durante Shabbat. Verso le 2 o le 3 del pomeriggio puoi sperimentare il momento assoluto ideale di cosa l'uomo può ottenere qui sulla terra. Ma non deve essere a Shabbat o durante. Puoi averlo di martedì spiritualmente. Un cabalista può evocarlo in se stesso. Fare Shabbat il martedì o il lunedì o in qualsiasi altro giorno. Tutte le settimane. È uno stato, una condizione, una situazione spirituale di Shabbat. Certo che non è il giorno di calendario, anche se tutti gli ebrei lo fanno di Shabbat. Tu puoi farlo di martedì. È il tuo stato interiore, come ti prepari per Shabbat. E tu lo sperimenti. Ovviamente c'è qualcosa come lo Shabbat nell'universo, ma puoi risvegliarlo in te stesso. E più sei in grado di farlo, che non è dato a tutti, senza lavoro individuale a se stesso. Di Shabbat si intende lo stato di Shabbat, lo stato spirituale di Shabbat. Come sperimentiamo Shabbat nel nostro mondo. Ci prepariamo di venerdì per lo Shabbat. E di Shabbat hai uno atteggiamento interiore speciale per cui, come se fosse tu non vedi tutto del mondo materiale. Ogni cosa la quale è Malchut con noi, portiamo tutti questi punti di forza verso l'alto. Sperimentiamo, per così dire, quelle Malchut e arriviamo a sperimentare qualcosa di più. Ci sono tre fasi. Venerdì sera è la prima venuta della luce, che sperimentiamo in più, ottenendo la luce. Ogni ebreo, quando ovviamente fa Shabbat, non importa ciò che lui è, ma che ognuno lo ricevono. Il venerdì sera, se lui ovviamente obbedisce alle leggi di Shabbat. Quali sono le leggi di Shabbat? Leggi spirituali dello Shabbat. Ma mi conformo per venire in accordo con le leggi dell'universo, anche se è solo per lo Shabbat. Estrarsi dalle preoccupazioni quotidiane, per cui lui ottiene una dimensione extra, e portarsi in accordo con le leggi dell'universo. Non l'esperienza religiosa, ma di Shabbat. Loro anche quello sperimentano, ma solo di Shabbat. Tutti gli ebrei religiosi che vivono a Shabbat quella esperienza. Ma quando lo Shabbat è finito, poi loro vengono o cadono di nuovo nel mondo ordinario, e per l'intera settimana si siedono nei giorni feriali. Situazione, condizione. Mentre un cabalista o un grande maestro di cabala, che sa come elevarsi a sperimentare lo Shabbat spirituale, in modo spirituale, in altri giorni. Può sperimentare il Shabbat pure in altri giorni. I grandi cabalisti sperimentano il Shabbat 7 giorni su 7. Anche quando hanno piccoli discorsi, vivono nella spiritualità. Naturalmente nei tempi passati c'erano molti cabalisti e ora nemmeno uno. Non un rabbino lo capisce. Non è un vero cabalista. Lavorano con mani e piedi e vivono nel nostro mondo. Anteriormente, fino al 1900 circa, c'erano rabbini in ogni villaggio che avevano punti di forza e intuitivamente sapevano riguardo alla Kabbalah. Anche quando loro non l'avevano studiato. ce l'avevano. Anche i grandi cabalisti vivevano nel nostro tempo e dovevano anche fare uno sforzo, e questo è molto importante. Non solo spirituale, ma anche terreno. Ma tutto ciò che facciano, tutto ciò che facciamo, il cabalista fa nel nome del Creatore. Non dovrebbe mai fuggire, è sempre connesso al Creatore. Fisicamente è sulla terra, connesso alla sua famiglia, sua moglie. Ma lo spirituale è collegato al Creatore. Tre fasi di Shabbat. Lo Shabbat di cui stiamo parlando. Io parlo solo dello spirituale, dell'eterno, e non del luogo in cui viviamo. Ogni cosa che io dico, anche quando ti sembra ridicolo, devi sapere che tutto è inteso come spirituale. Shabbat, venerdì sera. È la prima fase in cui una persona si prepara per ricevere Shabbat. Questo significa ricevere la condizione di Shabbat. Shabbat non è un giorno, ma una condizione. Venerdì sera arriva la prima porzione di luce su di te e poi una persona riceve una certa luce di Malchut. Da Azilut. Anche se una persona non è uno studioso, ma a causa della sua preparazione. Nella mattina arriva una luce in più e su quello che noi chiamiamo la preghiera del mattino, arriva un altro pezzo di luce in più. In generale, per cui viaggiamo nella nostra percezione addirittura più in alto in azione. Naturalmente, temporaneamente, durante il Shabbat. Ma Shabbat viene di nuovo e un colore rimane dietro. Di Shabbat fai il tuo kli più grande. E attraverso questo puoi sperimentare la luce. Di Shabbat renditi ricettivo per la luce, non tenerti occupato con le cose terrene. Hai tutta la tua fiducia rivolta alla luce, al re, che vuoi invitare. E naturalmente poi tu sperimenti quello. Nulla di più elevato esiste. Non è stato dato nulla di più superiore all'uomo che estrarsi completamente una volta alla settimana, per così dire, per il bene di qualcosa. Non sedere semplicemente nella posizione del loto, per non pensare a nulla e solo meditare. Certo, devi pensare allo scopo della creazione. Riguardo a cosa devi pensare? A cosa devi pensare? Il tuo obiettivo è per lo spirituale? 6 giorni l'universo è stato creato in 6 giorni. E il settimo giorno c'era pace. Impareremo cosa significa questo. E poi arriva la preghiera del pomeriggio. È la preghiera pomeridiana alle 2, 3 o 4. In punto è la più alta che l'uomo possa sperimentare nel nostro mondo. L'ora del pomeriggio di Shabbat. L'uomo si è completamente allontanato e questo è il massimo che uno può sperimentare. Pomeriggio di Shabbat. Nient'altro esiste. Il mondo attorno a te è crocifisso. Alcuni pensano di poter sperimentare qualsiasi cosa da qualche altra parte rispetto al tuo proprio Shabbat. Tu devi fare il tuo proprio Shabbat. Renditi ricettivo per la luce. E quale giorno è il tuo business? Non importa, non seguire qualcun altro. Crea il tuo personale Shabbat. E nel pomeriggio riceverai il più elevato. Cosa riceviamo? La sensazione di essere elevati. Ecco di cosa si tratta. Hai la sensazione di essere elevato. Sperimenti anche Malchut, ma la sensazione del serpente che ti morde dal basso non ti dà fastidio. Sperimenti tutti i tipi di tentazioni di Shabbat unità. Tutto ciò che accade intorno a te. Non stai vivendo una distrazione. Non puoi distrarti di Shabbat. Devi sperimentare questo e vedrai che tu giustifichi tutto quel che accade di Shabbat. Perché? Perché non puoi arrabbiarti di Shabbat. Hai fatto preparativi. È qualcosa di speciale, è quando possiamo sperimentare questo sulla terra. Puoi aspettarti di tutto, ma se non ti concedi questo una volta alla settimana, quando poi arriverà? Prova a vederlo così, funzionerà. Queste sono le tre fasi di Shabbat. Devi mangiare 3 volte al giorno, la sera, al mattino e al pomeriggio. Tutto ha un significato. Non è una cultura ebraica. È qualcosa di meraviglioso che è programmato secondo le leggi dell'universo. La luce non viene né va. Di Shabbat sperimenti tutta quella luce, non a causa delle tue correzioni, ma ti adatti non lavorando, non facendo ogni tipo di cosa. Ma quando Shabbat è passato, è finito. Ritorni immediatamente alla vita ordinaria, i 6 giorni della settimana. Ma un cabalista può allungare questo. E questa esperienza non sparisce. Un cabalista può allungare ogni cosa. Tutto il piacere è nelle tue mani quando impari la Kabbalah. Ogni piacere può essere fatto senza fine nella Kabbalah. Ridurre la luce. Ci sono due modi in cui l'universo è stato costruito. Attraverso distanze tra una sfera e un'altra luce. Sfirot si riducono. Ora la distanza della luce aumenta. Quando la distanza della luce è maggiore, la luce si riduce. La luce più bassa viene, più piccola diventa. Poiché maggiore è la distanza dalla luce che scende dalla sorgente, minore è la luce che arriva, perché la distanza della luce è qui, ci sono tutti i tipi di filtri, Chochmah, Binah, Zeirat Pinem, e poi scendono giù solo piccole gocce. D'altra parte il Kli diventa più grande. Impareremo man mano che ci avviciniamo giù, il Cli si allarga. Le nostre correzioni riguardano l'ampliamento dei nostri Chilim, organi che usiamo per percepire. Quello che stai sperimentando come un punto in te stesso, dove tu sei, quello è io. Quello è io. Quel luogo abbiamo bisogno di aumentare e ampliare attraverso la luce. Perché quando la luce entra in un cli più largo, diventa più piccola. Quando ingrandiamo il nostro Kli, Kilim, rendilo più esteso, questo significa che io faccio posto dentro di me per lo spirituale invece di me, io. Il mio posto egoistico. Mio egoista. Quando sono impegnato con me, non c'è posto per lo spirituale. Poi arriva la luce e non sento niente. Ma quando ingrandisci il tuo cli cercando di conformarti allo spirituale, dai il posto al superiore. Non scompare, ma puoi ridurre il tuo ego, il tuo io, me. E quando necessità, puoi fare appello su di esso. Puoi ridurlo, hai il controllo. Sei responsabile di te. Puoi chiamare lo spirituale e anche tornare sulla terra. Questo è come dobbiamo essere dentro. Dobbiamo allargare il nostro cli riducendo noi stessi. Quando siamo pieni del nostro ego, i nostri kilim sono piccoli. Quando ti rendi piccolo, i veri kilim cresceranno. Chi ha il controllo su di te? Il grande ego. Il grande ego o quando ti fai piccolo da te stesso? Quando ti fai piccolo, puoi crescere. Il creatore ha usato quei due principi quando costruiva i mondi. Ed esattamente così abbiamo bisogno di imitarlo, gestendo gli stessi principi. Il più basso è il più lontano dalla luce, più piccola è la luce. Questo è il modo di fare il tikkun, correzione. La correzione è che dobbiamo fare determinate azioni e aggiustamenti all'interno, veri aggiustamenti. Vogliamo ridurre la luce in modo che possiamo gestirla? E dall'altra parte, dal lato dei kilim, ho bisogno di ridurmi. Quindi il mio cli, il mio ricevere cresce. Questo è il principio. Questo è il tuo lavoro. Questo è l'unico lavoro che facciamo. Ridurre te stesso per quanto riguarda il più elevato. Cosa significa ridurre te stesso, rendersi piccoli? Che io chiedo luce. Che io possa ricevere. Quando sai come ridurti nella maniera in cui ricevi, allora non avrai paura di ridurti. Come ridurti? Renditi piccolo. Che Malchut sa che ha carenza. E inizia a ridursi. Questo è il lavoro che devi fare all'interno, attraverso alcuni sforzi, cercando di renderti più piccolo, vedere per davvero che hai carenza e dare questa carenza al superiore. Questo dovrebbe essere sperimentato. Ma come? Rendersi più piccoli all'interno, come? così tu puoi ricevere. Come possiamo ricevere quando siamo pieni di noi stessi? Ti senti come King Kong quando fai questo? Tuttavia, quando è finito, il fine settimana, vai a vedere lo psichiatra che deve riportarti giù. Deve renderti umano di nuovo, normale. Nel fine settimana eri grande, hai sperimentato ogni sorta di cose, hai fatto di tutto e poi devi imparare come farti piccolo di nuovo per questo mondo. Per esempio, ti deprimi e questo ti è stato dato dall'alto. Una depressione può essere data per farti di nuovo piccolo. Non aspettare lavora su te stesso, sii creativo nel costruire come renderti piccolo. Farti piccolo. Ti rendi piccolo non per qualcun altro, anche questo è necessario e difficile, ma ti rendi piccolo riguardo al re della vita eterna. Questo è lavoro, quindi ingrandisci il tuo cli e poi la luce è gestibile. Guardalo in questo modo. In una piccola stanza hai bisogno di una piccola lampadina. Questo darà abbastanza luce per illuminare completamente la stanza. Tuttavia, quando si utilizza la stessa lampadina, in una stanza o in una sala grande, non si illumina la stanza. La stanza è buia. Ma puoi vedere la lampadina. Non ti accecca. Ma la piccola lampadina nella piccola stanza ti accecca. Puoi vedere la stessa lampadina nella grande sala, puoi vedere. Con gli occhi aperti. Non solo guardare, ma vedere anche bene. Lo stesso facciamo con i nostri movimenti interiori. Ti rendi più piccolo. Cosa significa più piccolo? Il tuo ego, ma effettivamente ti fai più grande. Più ti riduci e ti costruisci te stesso riguardo al tuo ego, più grandi fai i tuoi chili. Più piccolo fai il tuo ego, più vita ricevi in te stesso. Devi essere desideroso di farti piccolo. In tal modo ricevi, ti rendi ricettivo e ricevi vita. Questi due principi, e in seguito capirai come è stato costruita ogni cosa, sono le condizioni per le correzioni e correggere noi stessi, chiamato Tikkun. È tutto ciò che desideriamo. In questo modo tutto è organizzato.